oggi facciamo gli auguri a un playmaker di grande talento, ma stuccone come pochi. Spegne 53 candeline, Kenny Anderson. E lasciami dire anche un in bocca al lupo ad Achille Polonara della Virtus Bologna, operato d'urgenza per un tumore a un testicolo. Torna presto, Achille, ti aspettiamo. Grazie per questa palla 2, amiche, amici sportivi e non sportivi. Parte il Mood Groove di oggi, martedì 10/10/2023. Una bella media, 10 su 10, però è la data. Ovviamente l'in bocca al lupo ad Achille Polonara arriva anche dagli studi di Via Zanardi, da Radio Città Fujiko, dal Move to Groove, dal Breakfast Club, perché abbia un'immediata ripresa questo atleta che si ritrova a lottare contro un bruttissimo avversario. In bocca al lupo, Achille. Biografia particolare oggi, è biografia di un atleta che esce da un draft in un periodo in cui, insomma, non è esattamente incentrato il nostro Mood to Groove. Mi pare sia il 1991 la scelta ufficiale, l'entrata nell'NBA di Kenny Anderson, di cui ho sentito parlare e chiaramente mi sono informato già nel pieno periodo di normalizzazione cestistica. È un atleta che non solo per il numero di maglia ma anche per determinate caratteristiche, ad esempio è mancino, mi ha ricordato immediatamente Little Tiny Archibald dei Boston Celtics. Kenny Anderson sarà presente anche a Boston, dove farà stagioni, diciamo, in cui il ruolo da titolare sarà ricoperto da questo point guard più che playmaker, una point guard realizzatrice, un grande uno contro uno, un grande controllo del corpo, una penetrazione veramente travolgente, cambio di velocità, ball handling molto molto talentuoso, la visione e la capacità di condurre sia in transizione che in contropiede, punti nelle mani, e una carriera che è iniziata subito con il massimo e con una grande promessa per il futuro. Ma ricordiamo quello che ha detto Paolo: è zuccone come pochi. Sì. Esce da un college prestigioso di cui magari Paolo ci parlerà per quanto riguarda questa definizione arma letale, lethal weapon, da Georgia Tech. Esce ed è seconda scelta assoluta. Per essere una point guard, cioè un giocatore, non un uomo d'area, allora aveva ancora senso parlare di interni, esterni, uomo d'area, portatore di palla. Adesso si è un po' uniformato tutto il contenuto anche di disposizione cestistica sul perché. All'epoca scegliere come seconda scelta assoluta una point guard, beh, insomma, è una scelta un pochettino particolare, non dico coraggiosa, in quanto l'atleta in questione, dotato di grandissimo talento, nasce nel Queens, quindi siamo a New York, lo troviamo a Georgia Tech, l'abbiamo visto anche in diverse franchigie NBA, e poi l'arrivo nell'ultima parte della sua carriera in Europa, ma ne parleremo poi, perché Kenny Anderson dà adito a trovare il cambiamento anche all'interno della società negli Stati Uniti d'America. E beh, lo troveremo come protagonista dagli anni 90 in poi. Lui seconda scelta assoluta per appassionate e appassionati. Dico che quell'anno la prima scelta fu un ottimo giocatore, che è Larry Johnson, ottimo giocatore. Lo stesso anno che poi quarta scelta fu il centro di Kembe Mutombo. Perché lui identifica determinati aspetti della società. Perché vi è questo aspetto di spavalderia, vi è questo aspetto anche nella musica, nella cultura, in quello che è un abbandono del tema sociale per quello che è un benessere, un tutto e subito, un'attenzione per quello che è una materialità anche dei beni. L'hip hop si trasforma, no? L'hip hop, oltre a essere presente in tutto il territorio, nel mondo poi in seguito, da New York alla West Coast californiana, in questo caso siamo a New York, l'hip hop. Ma vorrei partire da prima con il brano che ho selezionato per la nostra playlist. Beh, molte volte per scalare l'Himalaya ci vogliono anche dei personaggi che vanno a sacrificarsi, no? Per poi aprire la strada ad altri che ufficialmente saranno ritenuti i pionieri. Questo è stato un sacrificio di un autore che è un gigante del jazz, è Herbie Hancock, e nel 1982 farà un disco criticatissimo che è Future Shock. Dai critici questo nome viene trasformato in Future Shit, non lo sto a tradurre perché non è una bella parola. Criticatissima questa svolta di Herbie Hancock, ma che inconsapevolmente ha dato il via a tutto ciò che poi diventerà la breakdance, in seguito poi la street art per quanto riguarda l'arte figurativa, per quello che è l'abbigliamento, particolarità che fa parte dell'hip hop, la stessa musica hip hop. E questo brano, con la metrica che ascolteremo, con lo scratch, altro aspetto che nella musica diventerà protagonista, è stato nel 1982 nel disco Future Shock portato da Herbie Hancock. Il brano è questo, Rocket. Al college era compagno di squadra di altri due grandi realizzatori, Dennis Scott, bombardiere che fece poi le fortune degli Orlando Magic, e il buon Brian Oliver, un grande protagonista dei nostri campionati italiani. Quindi tre grandi realizzatori nella squadra di Georgia Tech gli valsero il soprannome di Lethal Weapon, perché erano delle armi letali. Scelto dai Nets, doveva formare insieme a Terry Coleman il nuovo duo Stockton to Malone, Derek Coleman, che fu la prima scelta assoluta dell'anno prima di Kenny Anderson. Parere personale, di sì, potenzialmente la più grande numero 4 tutti i tempi. Il guai è che, come detto prima, stucone come pochi, di sì ancora di più, finisco in uno spogliatoio dove di teste di legno ce ne sono parecchie. La squadra è ricca di talento, ma è ingestibile. C'è anche un buon allenatore, Chuck Daly, due volte campione NBA con i Detroit Pistons. Sembra che possano decollare, ma finisce tutto in una bolla di sapone. Beh, in effetti allora Future Shock, ho il vinile, è un disco debole, però prima di allora non si era mai sentito lo scratch in un lavoro, in un'incisione. Sarà il Camaleonte, grande innovatore, il disco sarà criticatissimo, come ho detto in precedenza, ma forse inconsapevolmente, ascoltando dei ragazzi in queste feste, in queste sonorità, in questo inizio di street art, di cambiamento nella cultura di una black music che negli anni Ottanta ha vissuto un periodo di ha vissuto un periodo un pochettino così, sì, c'erano, ovviamente non è mai ferma, ci mancherebbe, però per quanto riguarda gli anni 70 della Motown, del Philly Soul, del grande groove, insomma, sono cose che passate, sono musica bellissima, ma che hanno un momento per quanto riguarda la creatività che avrà uno stacco con le sonorità che stiamo ascoltando per quanto riguarda un inizio, quindi lo scratch, l'hip hop, assolutamente il messaggio vocale del rap, altro aspetto importantissimo per quanto riguarda la protesta, ma sono anni di grande reazione in generale, quindi nel rap e nell'hip hop troviamo anche dei messaggi a sfondo sessista, dei messaggi che inneggiano al liberismo, al capitalismo, allo sfoggiare. Quanti vediamo col simbolo del dollaro, quanti li vediamo scendere da delle macchine lussuose, insomma c'è una grande contraddizione che purtroppo vivranno le classi meno abbienti. Ciò non toglie che la street art, la cultura dell'hip hop, fondamentale, anche molto molto intensa, non c'è solamente motivo di critica, anzi tutt'altro, ci sono anche artisti clamorosi, grandissimi, Guru Jazz Mataz ad esempio, gli Us 3, la ricerca per quello che è poi un inserimento nell'acid jazz quando saranno i primi anni 90, l'arrivo di Kenny Anderson, il protagonista di oggi di cui parleremo a breve, ma non solo, anche dalla diffusione più estesa, i Public Enemy, la West Coast con Ice Cube. Teste calde, teste un po' così, zucconi, quanto mai zucconi, ma veramente. Allora, correggimi Paolo se mi sbaglio, perché già quel momento in cui per me, insomma, sento da Michael Jordan in avanti con la normalizzazione e l'inevitabile decadenza che stiamo vivendo in ambito cestistico. Poi può essere opinabile quello che sto dicendo, però insomma tant'è dal punto di vista fattuale quello che troviamo dal punto di vista tecnico sui parquet. E quello che è arrivato insieme a uno dei protagonisti e un altro giocatore fortissimo che ho visto, Derek Coleman, lui veramente è la coppia Stockton-Malone ripresa da Kenny Anderson e Derek Coleman, è un dualismo che ci sta e come. Aggiungo un atleta, poi appunto correggimi Paolo, Chris Morris, lui può giocare sia da 3 che da 4, è un atleta quanto mai completo ed è anche conforme a questo cambiamento perché fisicamente è veramente un atleta eccezionale. Beh, alcune affermazioni, una su tutte per Chris Morris, insomma, ho letto sullo Zender Hollander che mi colpì particolarmente. Durante una trasferta, i New Jersey Nets si trovavano on the road. Non è che nella NBA su 82 partite si fa una in casa e una fuori, una in casa e una fuori, perché se ne hai una in casa a San Antonio e quella dopo l'hai fuori, non so, a Minnesota, diventa un pochettino impegnativo, no? Farla a distanza di 2 giorni. E quindi si dice alla striscia on the road e fa alcune partite la franchigia tutte in trasferta on the road. Ecco, Chris Morris capita in questo albergo insieme ai suoi compagni, non ricordo chi, c'è un compagno che si siede al pianoforte, curioso, nella hall dell'albergo c'era un pianoforte, quindi si avvicina al pianoforte e Chris Morris lo guarda molto curioso e gli dice: "Hey man, play me something Picasso". Ehi fratello, ehi amico mio, dai, tu che sei, suonami qualcosa di Picasso. Veramente di soggetti abbastanza particolari. Morris era la reincarnazione della la piccola. Sì. La tecnica atletica, perché era ancora in grado di giocare benissimo a basket, ma con un aiuto che il buon Dio solo gli poteva dare, un fisico fuori dal comune. A me personalmente piaceva molto. Anche a me. Come sempre, piove sul bagnato, il fatto non è dalla parte di New Jersey Nets, c'è anche la grave perdita del grande Drazen Petrovic e da lì la squadra inizia ad andare un po' a sud. Ma c'erano dei personaggi veramente da farci puntate di Move to Groove una dietro l'altra. Ricordiamo anche il grande Big Ben Benoit Benjamin, talento fuori dal comune, inversamente proporzionale alla testa, grande come una nocciolina, il grandissimo Chris Morris, Terry Mills e compagnia. Sì, diciamo che, allora, non è sempre per dire ah com'era verde la mia valle, che grandi personaggi, però un intellettuale come Kareem Abdul-Jabbar, un esempio di signorilità come Giulio Serving, un esempio di approccio positivo come Irving Magic Johnson, ce lo siamo completamente dimenticato. Al loro posto c'era appunto il simbolone del dollaro con le catenone dorate, c'erano i macchinoni, c'erano aspetto che, guarda un po', ha seguito, guarda caso, le orme di una società. We'll be right back. per quello che oggi vi propongo la colonna sonora con questo lavoro di cui ho anticipato i contenuti, ho messo assieme. Allora, questo brano è Space Odyssey di un immenso Marcus Belgrave alla tromba, ok, già attempato, si mette a disposizione di un DJ produttore che è il padre della Detroit Techno. Questo disco è stato prodotto e in parte anche suonato da Carl Craig, che è producer and DJ tra i più rappresentativi della techno di Detroit. Questo disco porta il titolo di Detroit Experiment. Questo è Think Twice di Donald Byrd. Versione techno. Sembrava roseo per i New Jersey Nets con questi atleti. Il fatto che Kenny ha quel demone dentro, quell'agitazione, quell'inquietudine. Beve, fuma, spende soldi in continuazione, colleziona donne e macchinoni. In poco tempo metterà al mondo 8 figli da 5 donne diverse. Il mondo va veloce e lui vuole essere ancora più veloce, vuole essere più veloce di un fulmine, ma poi ti schianti come un tuono. Frequenta il jet set, è vicino a donne molto belle e anche molto in vista. Storie che a volte non tornano, e con il coach della scuola che lo considera uno dei suoi protetti e purtroppo gli sta anche troppo vicino. Pensate un po', ci sono cronache che raccontano che in giovane età ci siano stati dei coach un pochino troppo attenti a lui e non per il talento cestistico. La pallacanestro lo salva, apparentemente, quando addirittura pensa di farla finita, di scappare. Prende la palla e se ne va al campetto, dove lì sì che è rispettato e dove cerca di farsi rispettare, dove scappa da tutti, cambi di velocità, vince tutte le partite, ancora di più un primo passo veramente inarrestabile, conclude con decisione, con intensità, è dominante, ma il demone purtroppo resta dentro di lui. delle brutte voci. Beh, vi ho raccontato delle cose che sono abusi e chiaramente nell'aspetto di un mondo macista, Kenny Anderson è omosessuale. No, Kenny Anderson ha subito delle attenzioni e Kenny Anderson vuole essere invece una persona che, oltre che campione, è macio al 100%, e da lì una vita disordinata, una vita che purtroppo ha dietro questo mostro che l'ha portato a degli eccessi veramente molto importanti. Arriverà a fare, lui è un all-star, lui viene convocato anche per l'all-star game, non ricordo l'anno. La pressione di giocare per la sua città si fa sentire, l'avere attorno le mille distrazioni della grande mela, la propria cricca di amici, no? Perché ci sono tanti soldi intorno a Kenneth Anderson e le belle donne, la bella vita, e non aiutano però tutto questo a formare il carattere di un giocatore, prima di tutto, prima che della vittoria, alla ricerca di se stesso. Che esempio, se estendiamo la cosa, di come stanno andando e di come sono andate le cose in quel periodo, nel mondo dello sport e non solo in quello. Torniamo a breve per vedere questa seconda parte di carriera di Kenny Anderson. Poi arriverà a giocare in Europa, esattamente in Lituania, nello Žalgiris di Kaunas. Beh, lo scopriremo nella seconda parte del Mood to Groove di oggi con The Detroit Experiment, la colonna sonora odierna e le avventure e disavventure di Kenny Anderson. A tra poco! Questa è la nuova generazione che avanza, è la pallacanestro che inizia a tendere verso l'atletismo, è il boom e l'esplosione del rap nella Lega e con il suo stile e la sua cultura. Diciamo che siamo all'inizio del volta pagina della pallacanestro che, come diciamo noi, sta andando sempre più a sud. Un'infanzia felice, uno dei tanti playmaker usciti dalla grande mela, lui nativo del Queens, se mi ricordo bene, diciamo che per arrivare a sera doveva sudare le proprie viali sette camicie e schivare forse anche qualche pallottola. Ovviamente anche negli anni da noi decantati perché ci crediamo, poi può essere opinabile. Non è che allora non ci fossero le teste calde. A New Jersey, ve ne dico uno, Sugar, Michael Ray Richardson, probabilmente no, ma per quanto riguarda il mio gusto personale, potenzialmente più forte di Magic Johnson. rovinato. E poi che si è salvato la vita. È un grandissimo giocatore nel mio starting five di americani che hanno calcati perché italiani. Sugar c'è. John Lucas, altro che. Ma potrei andare avanti d'oltranza, non è che. È che vi erano però un'attenzione al sociale, un'attenzione all'attualità. Pensate, il più grande giocatore di tutti i tempi nella pallacanestro che noi seguiamo viene da un paese che è la metà di Loreo. Loreo ha più di 3.000 abitanti. French Lick nell'Indiana ne ha 1.600. Bill Walton lo chiamavano il Grande Rosso perché lui, movimenti di protesta, attenzione alle disparità, attenzione per i ceti più deboli, una vicinanza con tutto quello che era il movimento più di sinistra negli Stati Uniti d'America. Kareem Abdul-Jabbar è un intellettuale di prim'ordine, è una persona estremamente colta, filosofia, società, studio, lettura, letteratura. E anche nella spettacolarità Julius Irving, con questa signorilità, con questo approccio al gioco quanto mai esemplare, non solo di correttezza, ma oltre. E poi, pensate, se l'esempio deve essere il consumismo più totale, avere più donne possibile, spendere tutti i soldi perché bisogna far vedere che non si è solo dei grandi talenti, ma anche i padroni del mondo. È quello che ha fatto, ha dissipato un patrimonio, lui dichiara bancarotta, viene salvato, poi vi racconterò in maniera roccambolesca, lui ha dissipato un patrimonio di 63 milioni di dollari e già nel 2005 Kenny Anderson è senza un quattrino e dice io non mangio, cioè io non ho più i soldi per mangiare. Si salva per quanto riguarda la sua fama da prima scelta, dal Queens, e ancora oggi ovviamente è una leggenda e il suo nome riecheggia per anche questi suoi eccessi, ma per il suo talento. Lui farà parte di quella generazione poi che lascerà gli Stati Uniti d'America per raggranellare qualche soldo, andrà a giocare, ma è appesantito, non è neanche l'ombra di se stesso, andrà a giocare nello Žalgiris Kaunas in Lituania, farà parte di quella spedizione, no, di cui ha fatto parte anche Dennis Rodman, altra bella testa che per conoscere il dittatore della Corea del Nord, che appunto a proposito di eccessi voleva fare per sé un All-Star Game e conoscere questi grandi campioni, e quindi insieme a Dennis Rodman andrà a Pyongyang in Corea del Nord. Ci sono foto che lo ritraggono insieme al dittatore coreano. Ancora in auge, abbiamo parlato dei New Jersey Nets, gli propongono il trasferimento nei Toronto Raptors. Come? Ma come vi permettete? Io mi mandate a giocare in quel posto minore che è il Canada? Ma voi siete fuori. Pensate un po' dove è finito. (Musica) c'è un Dio, There is a God, il brano che stiamo ascoltando. Noi auguriamo a Kenny Anderson un buon compleanno. Lui cerca di essere la guida per Ken Junior, che è uno dei suoi figli. È un ottimo prospetto di high school. E immagino che osservando, guardando, no? Questi movimento, questo sottomano tipico che caratterizzava il Kenny Anderson padre, beh, sicuramente un attimo di emozione, eh? Preso anche per i capelli da rischiare di lasciarsi le penne per un brutto malore, ma come si dice in America, se non sei carico di quattrini non ti curano, e lui rischiò proprio di finire così, perché era più un becco di un quattrino e doveva curarsi da una malattia mortale. Arrivano i primi problemi fisici, i Nets non credono più in lui e lo cedono, inizia a diventare un po' un giramondo NBA. Ancora buone stagioni a Portland e soprattutto nella tua Boston, Willy, sì. Dove con Paul Pierce e Antoine Walker arriva a un'inaspettata finale di conference nei primi anni 2000 proprio contro i Nets, ma stavolta del grandissimo campione Jason Kidd. Guarda caso, continua a Boston a tenere il numero 7. Citiamo il quintetto, lo starting five dei miei New Jersey Nets, squadra per la quale avevo una simpatia, eh? Pensate, sempre lo sliding doors, il what if, se non ci fossero stati i Boston Celtics, eh? Sugar Ray Richardson, Otis Birdsong, Albert King, fratello del più famoso Bernard, la più forte power forward alla grande della storia, Buck Williams e il centro, Darrell Dawkins, di cui spesso abbiamo parlato e citato le gesta, quanto mai spettacolari, ma anche tecniche. Grande baby gorilla, non mi piace questo soprannome, preferisco The Thunder of Chocolate, Darrell Dawkins, il tuono di cioccolata. Persona, possa riposare in pace, persona di una bontà. Ci Ricordiamo anche chi ha fatto la differenza in Italia, giocava da primo cambio per le guardie. Arriva Pesaro, il grande Darwin Cook. E mandiamo i saluti con l'appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina. Avremo da remoto Silvia Albertazzi. Ringrazio Paolo per avermi dato la possibilità di approfondire queste figure in una pallacanestro che io stavo iniziando a schivare, di una pallacanestro che sentivo da lì in avanti non sarebbe più stata la stessa cosa. Come disse Aldo Giordani sull'11 su 12 di Toni Kukoč, questo è la morte. Oggi ho assistito alla morte della pallacanestro. Grazie Paolo, grazie ascoltatrici e ascoltatori per l'attenzione. Ritorniamo martedì prossimo, quindi a breve Liberi Dentro, anticipata dall'Edipè Enciclopedico, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Non perdete il vinile della settimana con Andrea Gozza. C'è uno splendido sole, dei colori così di un ottobre, la famosa ottobrata, completamente a pieno. Appuntamento a domani alle ore 7 per la prima colazione in diretta. Un caloroso abbraccio, una buona giornata dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.